Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno. Subito la mail: unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ripeto, anche il mio blog si chiama Guardie o Ladri, lo trovate sulla prima pagina del Sole 24 Ore online, oppure digitate robertogalullo.blog.ilsole24ore.com. I temi che tratto, lo sapete, diritti, legalità e criminalità organizzata, le mie passioni al Sole 24 Ore ormai da anni. Allora, tra le belle lettere che riceviamo, devo dire sempre più copiose, non riusciamo più a stare dietro a tutte, e mi scuso quindi per quanti non hanno una risposta in tempi celeri, ce n'è stata una che mi ha particolarmente colpito, perché proviene da un radioascoltatore della provincia di Cagliari, il quale ha una peripezia da raccontare, a mio giudizio, abbastanza anomala, dopo una multa che lui ha ricevuto nel 2004, quindi ormai siamo nel 2009, sono quasi 5 anni, e nella sua lettera molto garbata ad un certo punto scrive: ma insomma, non è giusto che io faccia causa come per tentata estorsione nei confronti dell'agenzia di riscossione, suppongo io, che dovrebbe prendere una multa che in realtà non deve più pagare? Allora, per capirne di più, perché sicuramente questo è un caso che non riguarda il singolo, ma chissà quanti di voi in questo momento in ascolto riguarderà, perché vi sarete trovati o vi trovate in situazioni simili, io per questo motivo appunto do innanzitutto il buongiorno al nostro radioascoltatore Mario Ghironi. Buongiorno Ghironi. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. E poi do il benvenuto ovviamente anche al nostro esperto del Sole 24 Ore, il comandante della Polizia Municipale di Monza, Silvio Scotti. Benvenuto Scotti. Ben trovati. E all'assessore alla mobilità del comune di Monserrato in provincia di Cagliari, chiamato in causa, poi lo sentiremo perché, il dottor Valerio Sartini. Salve Sartini. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, Ghironi, partiamo da lei. Che cosa è accaduto in questi 5 anni? Allora, per iniziare, io ho una Peugeot che guida mia moglie, che fa da Cagliari a un paese in Interland, Sinnai, va bene, viaggia e attraversa il comune di Monserrato. La prima volta ha preso una multa perché dice che è superato, non so, un 5 chilometri o giù di lì, e è arrivata sta multa da pagare senza preavviso, non mi è arrivato nessun avviso, per cui io mi sono rivolto a un amico, siccome sono impegnato nel lavoro, sono rivolto a un amico, un poliziotto, e ho detto: senti, fai il favore, vai al comune di Monserrato e vedi un pochino se questa roba come situazione, come mai non mi è arrivata la multa. Dicono, è andato al comune, ha parlato con una vigilessa e dice che questa multa era da pagare, erano 130 euro la prima multa, va bene, sì. E io la pagai senza che mi arrivasse nessun avviso di pagamento, perché devono arrivare 2 avvisi di pagamento se io non ricevo il primo, che è quello verde che devo firmare l'interessato, mi deve arrivare anche il secondo, non mi è arrivato, vabbè, ho pagato la multa 130, dopo un po' di tempo me ne arriva un'altra di 430 euro. A questo punto mi consenta, dice qualcuno, io ho puntato i piedi e mi sono dato da fare, sono andato alle poste, sono andato al comune di Monserrato ovviamente, e ho chiesto, e poi sono andato alla di Consol. Ecco, specifichiamo che stiamo parlando della multa per la stessa identica infrazione. Lei aveva pagato e le arriva un'altra multa di 430 euro. No, scusi, la prima è stata pagata, okay, e finita lì. D'accordo, la seconda è andata a morire. È d'accordo. Non allora, ci ho pensato più. Allora, quella l'abbiamo lasciata morire lì. Quindi si tratta di un'altra multa. La seconda, purtroppo, mi sono portato i piedi perché erano 420 euro e i soldi non li trovo sotto la strada. Mia moglie non è stata fermata. È arrivata dopo 3 anni, perché mi è arrivata l'anno scorso, mi è arrivata sta multa, ho portato i piedi, ho fatto i miei passi, sono andato al comune, sono andato alle poste, nessun avviso mi è arrivato. Allora specifichiamo bene. Di andare a pagare. Allora specifichiamo bene per i nostri radioascoltatori che avranno problemi simili. Lei ha preso una nuova multa di 430 euro arrivata dopo 3 anni. Non le era arrivato nessun avviso, non era stato fermato, no, eccetera eccetera, ha fatto ricorso a tutti, compreso il giudice di pace, che con sentenza ha annullato la multa, è corretto? Perfetto. Oh, e perfetto. A questo punto cosa accade? Dopo accade ancora che purtroppo mi è arrivata ancora l'ingiunzione, perché l'avvocato è andato all'agenzia che riscuote e ha versato, cioè doveva versare i documenti del giudice di pace, non gliel'ha accettati personalmente, allora gliel'ha inviati, io ho visto la documentazione, gliel'ha inviati. E poi dopodiché sembrava finita lì, mi è arrivata di recente, qualche mese, un mese fa circa, giù di lì, i giorni prima di Natale, mi è arrivata che io dovevo pagare 507 euro in base a quella multa lì. A questo punto ho ridato di nuovo all'avvocato. Benissimo, all'avvocato, io la fermo Ghironi, la fermo un attimo, perché altrimenti i radioascoltatori non capiscono e non si identificano. Allora, lei a questo punto, dopo 4 anni, sta ancora girando intorno a questa multa che da 4,30 è lievitata a 507 euro, nonostante il giudice di pace l'abbia annullata e l'avvocato abbia inviato la sentenza. A chi? Al comandante dei Vigili Urbani di Monserrato e all'Agenzia per la riscossione della multa. Questo per chiarire bene il tutto. Allora, questo è il caso. Andiamo subito ad ascoltare l'assessore alla mobilità Valerio Sartini per chiedergli quali sono, se ci sono, ben inteso, le responsabilità del comune in questa vicenda che noi abbiamo preso come esplicativa di altre vicende che colpiscono molti guidatori in tutta Italia. Prego Sartini. Allora, anch'io farò una brevissima cronistoria, quindi la multa a cui si riferiva il signor Mario Ghironi, che intanto saluto cordialmente, è riferita all'8 aprile del 2004, l'auto transitava in una delle strade del nostro comune, una strada appunto provvista di autovelox. È stata fatta, io qui di fronte a me naturalmente, sì, copia del verbale con la foto, tra l'altro non gli è stata contestata subito perché in quel momento i vigili erano, infatti si vede anche dalla foto, stavano con un altro automobilista che era stato lo stesso. Ecco, ma questa è una cosa che ci ha raccontato anche il nostro radioascoltatore. Veniamo al, come dire, al fatto di dover tribolare a distanza di 5 anni. Come mai questo accade? Sì, questo accade perché naturalmente, non essendo stato fermato il signor Ghironi, chiaramente si è proceduto attraverso il PRA per conoscere l'indirizzo a cui notificare la multa. Naturalmente al PRA l'indirizzo che risultava non era l'indirizzo nuovo di Sinna e del signor Ghironi, ma risultava un indirizzo di Cagliari. Ecco, io ovviamente la colpa non è la sua, 3 anni però sono anni. No, aspetti, però è stata notificata lì la contravvenzione e l'ufficiale postale, quando ha rinviato indietro, non ha scritto trasferimento di indirizzo, ma ha scritto atto non ritirato. Io qui di fronte a me la pratica. No, ma io non lo metto in dubbio, però veniamo al dunque, assessore. Poi arriva un giudice di pace, che vi manda una sentenza, però a distanza anche di questo altro atto siamo ancora qui a parlarne. No, ma intanto io posso fare una premessa, posso dire al signor Ghironi che ieri il comune ha immediatamente, di fronte a questa situazione, si è immediatamente attivato. Io ho qui di fronte a me proprio la comunicazione inviata a Equitalia, che è appunto chi riscuote la società, esatto, Italia Sardegna, che è la società dell'espressione delle entrate, a cui chiaramente noi abbiamo immediatamente comunicato che interrompesse immediatamente l'atto. Ecco, la interrompo anche io, Sartini, soltanto per dare la parola conclusiva al nostro esperto. Mi permetto soltanto di dire, un po' maliziosamente, poi ciascuno si farà la propria opinione, che si è provveduto immediatamente dopo che è stata contattata a Radio 24. Questa è una mia malizia, ovviamente. Scotti, a lei la parola conclusiva. Che cosa c'è che non quadra in tutto questo discorso? Dunque, c'è un aspetto che suggerisco all'assessore di controllare, cioè di verificare se l'accertamento è stato fatto al PRA, perché in realtà non andrebbero fatti al PRA l'accertamento, ma ai registri della motorizzazione civile, che sono gli unici per quanto riguarda, diciamo così, il punto di vista legale, che fanno fede. dopodiché di capire se per caso si è trattato di un inadempimento da parte del nostro ascoltatore, cioè quello di non comunicare l'avvenuto trasferimento di residenza, oppure se la lettura che è stata fatta è avvenuta o a registri non aggiornati, oppure siamo di fronte ad un'errata lettura. Ecco Scotti, però diciamo bene nel dire che è giusto il comportamento del nostro radioascoltatore, cioè far valere in maniera civile le proprie ragioni. Certamente, ma poi siamo di fronte ad un fatto che direi che è risolutivo, al di là di come sia andata la storia, ci manca qualche particolare ovviamente, certo, ma siamo di fronte ad una sentenza del giudice, esatto, di pace. A fronte della sentenza del giudice di pace, ovviamente, io credo che poi tra l'altro comunque la struttura del comune ne fosse a conoscenza, perché solitamente ci si rivolge a giudici di pace, ma esiste anche un contraddittorio: a fronte di questa sentenza avrebbero dovuto fermare qualunque tipo di ulteriore procedura, adempimento, certo, anche certo, perché il nostro ascoltatore rischia parecchio nei confronti di una cartella esattoriale se effettivamente non viene immediatamente scaricata dal punto di vista amministrativo. Ecco. Allora, io ringrazio Scotti per il suo intervento, ringrazio i nostri ospiti e dico grazie in regia a Valeria Bernardi e in studio Laura Fagin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.